Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con Europa 24. Oggi parliamo innanzitutto di edilizia sociale, edilizia popolare. Come sapete, un tema caldo, caldo lo è sempre, in questi giorni addirittura bollente per le situazioni che riguardano alcuni anche casi molto specifici, ma di interesse collettivo, come accade a Tor Sapienza a Roma da una parte, naturalmente sul quale si stratificano poi altre tematiche, o come succede per il discorso Aler Case Popolari a Milano, una metropoli che fa fatica ad assicurare a tutti, a chi ha anche meno mezzi, un'abitazione dignitosa. Allora, su questo tema è tornato anche questa mattina durante 24 mattina, quindi con Alessandro Milan, Marco Furfaro di SEL. Sentiamolo. La media delle case popolari in tutta l'Unione Europea, guarda, l'Italia ce n'ha 5 su 100 ogni casa, 5 sono edifici di residenza pubblica, la Germania e la Francia 15, l'Inghilterra 20, l'Olanda 35. Ci sono poche case pubbliche, poche case popolari. Poche case pubbliche o sociali che dir si voglia, o popolari appunto, con un sistema che invece nel nord dell'Europa viene applicato, che coinvolge il privato. Allora abbiamo chiesto a Valentina Furlanetto di spiegarci se effettivamente il meccanismo del nord funziona meglio e magari che possa essere davvero di spunto e riflessione per la nostra classe politica. Sentiamo il servizio. In Italia, stima l'Unione Inquilini, sono 700.000 le famiglie in attesa di entrare in una casa popolare. Ad Amsterdam, invece, circa la metà degli abitanti vive in abitazioni con un canone concordato e le liste d'attesa sono ridotte al minimo. In realtà è proprio il modello differente. Solo in Italia esistono infatti case pubbliche al 100%, mentre altrove ha successo il social housing. Un modello che funziona a nord, ma che a sud non ha attecchito. In Spagna, nonostante 8 spagnoli su 10 abbiano diritto a chiedere l'ingresso in una casa popolare, il peso degli alloggi convenzionati nel mercato della casa è solo del 3%. In Olanda sfiora il 50%, mentre in Italia è a metà strada. In gran parte dei paesi europei l'assegnazione e la gestione dell'alloggio sociale non passano per forza dal pubblico. Nei Paesi Bassi, come in alcuni land tedeschi, sono le stesse cooperative a gestire anche le assegnazioni. E il criterio economico non è l'unico modo per avere accesso a una casa a canone moderato. In Germania e in Inghilterra ci sono categorie protette come gli anziani. In Svezia le contrattazioni sono condotte dai comitati di inquilini con le cooperative. Secondo la ricercatrice dell'Università Bicocca Roberta Cucca, sociologa esperta di politiche urbane, la disponibilità di case popolari in Italia è del 20% inferiore rispetto alla media europea. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora sullo scenario internazionale, quello dei rapporti tra l'Europa, la Russia sul caso Ucraina, non ci sono neanche oggi buone notizie. È stato annunciato da parte del premier Arseniy Yatsenyuk, quindi il premier dell'Ucraina, che il paese inizierà lavori per la demarcazione del confine con la Russia in una maniera unilaterale. La Russia ha detto di nuovo non mantiene le promesse, la commissione congiunta ucraino-russo per la demarcazione del confine ancora non funziona. Questa l'accusa di Yatsenyuk. Vi ricordo che ci sono circa 380 di chilometri di confine conteso, che ovviamente riguarda in particolare l'area del cosiddetto sud-est ucraino separatista. E ancora, il primo ministro lussemburghese Javier Bettel si dice contrario ad una armonizzazione fiscale nell'UE, sostenendo che la tassazione deve rimanere materia di competenza degli stati. Lo ribadisce in un'intervista pubblicata dal quotidiano belga L'Echo. Di certo io non vado avanti con l'idea che il Lussemburgo debba avere una fiscalità più alta di quella attuale, non sono d'accordo, e aggiunge con che dice che tutti all'interno dell'UE debbano muoversi verso un'imposta unica e con la stessa aliquota. Bene, questo naturalmente è il caso che esplode di tanto in tanto e che riguarda l'attualità in maniera prepotente, visto che Jean-Claude Juncker, attuale presidente della Commissione europea, è stato a lungo il presidente del Consiglio dei Ministri del Lussemburgo, e proprio su questo tema è stato duramente criticato. E con questa notizia è tutto, non mi resta che rinviarvi all'appuntamento di Europa 24 a notte stasera intorno alle 21.30. Noi ci risentiamo domani, un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.